indiani in casa. Un mattino presto papà prese il fucile e andò a caccia. Quel giorno aveva intenzione di costruire la struttura del letto, aveva già preparato le tavole, quando mamma gli disse che non c'era carne per la cena. Così lui appoggiò le tavole contro il muro e prese il fucile. Anche Jack voleva andare a caccia, guardava implorante papà e guaiva al punto che Laura ebbe voglia di sgridarlo, ma papà lo legò con la catena alla stalla. «No, Jack», disse papà, «devi stare qui e fare la guardia». Poi disse a Mary e Laura, «non slegatelo, bambine». Il povero Jack si sdraiò. Era una disgrazia essere incatenato. Lui era molto triste. Si voltò per non vedere papà che si allontanava con il fucile in spalla. Papà si allontanava sempre di più fino a scomparire inghiottito dalla prateria. Laura provò a consolare Jack, ma lui non ne voleva sapere. Più pensava alla catena, peggio stava. Laura provò a farlo giocare per tirarlo su di morale, ma Jack era sempre più imbronciato. Sia Mary sia Laura stentavano a lasciarlo solo finché aveva l'aria così triste, così rimasero tutta la mattina vicino alla stalla. Gli accarezzarono la testa liscia e striata, gli grattarono le orecchie, gli dissero quanto erano dispiaciute che dovesse rimanere legato. Lui leccava loro le mani, ma continuava a essere triste e arrabbiato. La sua testa era appoggiata al ginocchio di Laura e lei gli stava parlando quando all'improvviso si alzò e ringhiò rabbiosamente. Aveva il pelo ritto e gli occhi rossi. Laura ebbe paura. Jack non le aveva mai ringhiato prima. Poi si guardò alle spalle, nella direzione in cui guardava Jack, e vide due uomini selvaggi, nudi, uno dietro l'altro, avvicinarsi dal sentiero degli indiani. «Mary, guarda!» gridò. Mary guardò e li vide anche lei. Erano uomini alti, magri e dall'aspetto feroce. La loro pelle era di un marrone rossiccio, le loro teste sembravano appuntite, avevano un ciuffo di capelli dritti sulla testa che terminava con delle piume. I loro occhi erano neri, fissi e lucenti come quelli di un serpente. Si avvicinarono sempre di più, poi sparirono dalla loro vista, dall'altro lato della casa. Laura e Mary voltarono la testa guardando il punto in cui quei terribili uomini sarebbero dovuti ricomparire dopo aver attraversato la casa. Indiani! Sussurrò Mary. Laura aveva i brividi, una strana sensazione nella pancia e si sentiva le braccia e le gambe molli. Voleva sedersi, però rimase in piedi e aspettò di vedere gli indiani sbucare fuori da dietro la casa, ma non lo fecero. Per tutto il tempo Jack aveva continuato a ringhiare. Ora aveva smesso e stava tirando la catena, i suoi occhi erano rossi, le labbra girate in dentro, il pelo dritto. Jack saltava e saltava cercando di liberarsi della catena. Laura era felice che la catena lo trattenesse lì, vicino a lei. «Jack è qui», disse a Mary sottovoce. «Non lascerà che ci facciano del male. Saremo al sicuro se stiamo vicino a Jack». «Sono entrati in casa», bisbigliò Mary. «Sono in casa con mamma e Carrie». Laura cominciò a tremare. Doveva fare qualcosa, non sapeva cosa stessero facendo quegli indiani a mamma e alla piccola Carrie. Nessun rumore proveniva dalla casa. «Cosa stanno facendo a mamma?» gridò d'un fiato. «Non lo so», sussurrò Mary. «Io libero Jack», bisbigliò Laura aspramente. «Jack li ucciderà». «Papà ha detto di non farlo», rispose Mary sottovoce. Erano troppo spaventate per parlare forte. Stavano vicine, guardavano la casa e bisbigliavano. «Ma non sapeva che sarebbero venuti gli indiani», disse Laura. «Ha detto di non slegare Jack». Mary aveva le lacrime agli occhi. Laura pensava alla piccola Carrie, a mamma, chiusa in casa con quegli indiani, disse «Vado ad aiutare mamma». Fece due passi di corsa, uno camminando, poi si voltò e tornò vicino a Jack. Lo strinse forte e rimase aggrappata al suo collo, robusto e ansimante. Jack non avrebbe permesso che le succedesse nulla di male. «Non possiamo lasciare mamma da sola», sussurrò Mary. Stava in piedi e tremava. Mary non riusciva a muoversi quando era spaventata. Laura nascose il viso contro Jack e si strinse forte a lui. Poi lo lasciò, serrò i pugni, strizzò gli occhi e corse verso la casa, più veloce che poteva. Inciampò. Cadde e spalancò gli occhi. Prima che se ne rendesse conto, si era già rialzata e aveva ricominciato a correre. Mary era dietro di lei. Arrivarono alla porta, era aperta. Si infilarono in casa senza fare rumore. Gli uomini nudi stavano vicino al camino. Mamma era china sul fuoco, stava cucinando qualcosa. Carrie era aggrappata alla gonna di mamma con entrambe le mani e nascondeva la testa tra le pieghe del suo vestito. Laura corse verso mamma, ma quando arrivò al focolare sentì una puzza terribile e guardò gli indiani. Veloce come un lampo, si infilò dietro la tavola lunga e larga che stava appoggiata al muro. La tavola era abbastanza larga da coprirle entrambi gli occhi. Se teneva la testa perfettamente immobile e il naso appoggiato alla tavola, non vedeva più gli indiani e si sentiva al sicuro, ma non poteva trattenersi dal muovere appena la testa in modo che un occhio sbucasse fuori per guardare i selvaggi. Prima vide i loro mocassini di pelle, poi le loro gambe magre, nude, di un marrone rossiccio. Intorno alla vita ciascun indiano indossava una striscia di pelle con una pelliccia di animale appesa davanti. La pelliccia era a strisce bianche e nere, e ora Laura capiva cosa fosse quella puzza tremenda. Erano peli di puzzola, infilati in una cordicella. Avevano un coltello come quello che papà usava per la caccia e un'accetta come quella di papà. Le costole sporgevano ai lati del busto, le loro braccia erano incrociate davanti al petto. Alla fine Laura guardò di nuovo i loro volti, poi si infilò in fretta dietro la tavola. I volti erano audaci, selvaggi e terribili, gli occhi neri brillavano, non avevano capelli al di sopra delle orecchie, ma sulla sommità del capo avevano un ciuffo di capelli dritti legati con uno spago e con delle piume infilate dentro. Quando Laura si sporse di nuovo da dietro la tavola, entrambi la stavano guardando. Aveva il cuore in gola e batteva così forte che si sentiva soffocare. Due occhi neri la fissarono. L'indiano non si mosse, non un solo muscolo sul suo volto si mosse. Solo i suoi occhi, rivolti a lei, brillavano. Neanche Laura si mosse, non respirava nemmeno. L'indiano fece due volte un suono stridente con la gola. L'altro indiano fece un suono come un ah! Laura nascose di nuovo gli occhi dietro la tavola. Sentì mamma togliere il coperchio dalla pentola, sentì gli indiani accovacciarsi vicino al focolare, poi li sentì mangiare. Laura si sporse, si nascose, poi si sporse di nuovo a guardare gli indiani che mangiavano il pane di mais che mamma aveva preparato. Lo mangiarono tutto, raccolsero persino le briciole da terra. Mamma li guardava accarezzando la testa di Carrie. Mary si avvicinò a mamma e si attaccò alla sua manica. Laura sentiva sferragliare la catena di Jack, stava ancora cercando di liberarsi. Quando ebbero mangiato ogni singola briciola di pane, gli indiani si alzarono. L'odore di puzzola era ancora più forte quando si muovevano. Uno di loro fece di nuovo quegli strani suoni con la gola. Mamma lo guardò con gli occhi sbarrati e non disse nulla. L'indiano si voltò, poi anche l'altro fece altrettanto. Attraversarono la stanza e si diressero verso la porta. I loro passi non producevano alcun suono. Mamma fece un lungo, lungo sospiro. Abbracciò stretta Laura con un braccio e Mary con l'altro. Dalla finestra guardarono gli indiani allontanarsi uno dietro l'altro sul sentiero che andava verso ovest. Poi mamma sedette sul letto e abbracciò Laura e Mary ancora più forte. Tremava, sembrava malata. Ti senti male, ma? Chiese Mary. No, disse mamma, sono solo felice che se ne siano andati. Laura arricciò il naso e disse: Quanto puzzano. Era la pelle di puzzola che indossavano, rispose mamma. Poi le raccontarono di come avevano lasciato Jack ed erano entrate in casa perché avevano paura che gli indiani facessero del male a lei. Ora dobbiamo preparare la cena, disse. Tra poco arriverà papà, la cena deve essere pronta. Mary, portami della legna, Laura apparecchia la tavola. Mamma si rimboccò le maniche, si lavò le mani e cominciò a preparare il pane, mentre Mary portava la legna e Laura apparecchiava la tavola. Mise un piatto di stagno, un coltello e una forchetta, una tazza per papà e lo stesso per mamma, con il piattino di stagno di Carrie vicino a quello di mamma. Poi mise i piatti, i coltelli e le forchette per lei e Mary, ma avevano solo una tazza in mezzo tra i due piatti. Mamma fece due pagnotte sottili a forma di semicerchio. Le mise nel forno, poi le schiacciò con le dita. Papà diceva che non c'era bisogno di zucchero dopo che mamma aveva messo le dita sul pane. Laura aveva appena finito di apparecchiare la tavola quando papà arrivò. Lasciò un grosso coniglio e due tacchini selvatici fuori dalla porta. Entrò e appese il fucile. Laura e Mary corsero ad abbracciarlo parlando contemporaneamente. Cosa c'è? Che succede? Disse con le mani tra i capelli. Indiani? E quindi alla fine avete visto gli indiani? Li hai visti, Laura? Ho visto un accampamento in una piccola valle a ovest. Sono entrati in casa, Caroline. Sì, Charles, due di loro, disse mamma. Mi dispiace, ma hanno preso tutto il tuo tabacco e hanno mangiato un sacco di pane di mais. Hanno indicato il pane e mi hanno fatto segno di cuocerlo. Io avevo paura di rifiutare. Oh, Charles, ho avuto paura. Hai fatto bene, disse papà. Non vogliamo farci dei nemici tra gli indiani. Poi disse: Che odore! Indossavano pelli di puzzola, disse mamma, e nient'altro. Chissà com'era forte l'odore quando erano qui, disse papà. Già, e siamo a corto di farina di mais. Oh, beh, ne abbiamo ancora per un po' e c'è parecchia carne che scorrazza là fuori. Ma hanno preso tutto il tuo tabacco. Non importa, disse papà, posso fare a meno del tabacco fino a che non andrò a Independence. L'importante è andare d'accordo con gli indiani. Non vogliamo certo svegliarci una notte con una banda di... Si fermò. Laura voleva assolutamente sapere cosa stava per dire, ma le labbra di mamma erano strette mentre scuoteva la testa, rivolta a papà. Su, Mary e Laura, disse papà, andiamo a scoiare il coniglio a preparare i tacchini con il pane di mais. Su, su, ho una fame da lupo. Sedettero sulla pila di legna, al vento e al sole, e guardarono papà al lavoro con il suo coltello da caccia. Al grosso coniglio aveva sparato nell'occhio e i tacchini erano morti sul colpo. Papà disse che non se n'erano nemmeno accorti. Laura teneva il bordo della pelle del coniglio mentre papà con il coltello la separava dalla carne. Salerò questa pelle e la appenderò fuori ad asciugare, disse. Potrà diventare un bel cappuccio di pelliccia per l'inverno per una delle bambine. Ma Laura non riusciva a non pensare agli indiani. Disse a papà che se avessero liberato Jack li avrebbe mangiati in un boccone. Papà posò il coltello. Bambine, avete pensato di liberare Jack? Disse con voce minacciosa. Laura abbassò la testa e disse sottovoce: Sì, pa. Dopo che vi avevo detto di non farlo? Disse papà con voce ancora più minacciosa. Laura non riusciva a parlare, ma Mary mormorò: Sì, pa. Per un attimo papà rimase in silenzio. Fece un lungo sospiro, come aveva fatto mamma dopo che gli indiani erano partiti. Se è così, disse con una voce terribile, devo ricordarvi di fare sempre ciò che vi dico. Non dovete nemmeno pensare di disobbedirmi, capito? Sì, pa, dissero Laura e Mary sottovoce. Sapete cosa sarebbe successo se aveste liberato Jack? Chiese papà. No, pa, risposero. Avrebbe morso gli indiani, disse, e sarebbero stati guai, guai grossi, avete capito? Sì, pa, dissero, ma non avevano capito. Avrebbero ucciso Jack? Chiese Laura. Sì, e non è tutto, bambine, ricordate qualsiasi cosa accada, fate quel che vi dico. Sì, pa, rispose Laura e Mary aggiunse: Sì, pa. Erano felici di non aver liberato Jack. Fate quel che vi dico e non vi accadrà nulla. Acqua fresca da bere. Papà aveva costruito il telaio del letto, aveva levigato le strisce di legno di quercia fino a eliminare ogni singola scheggia. Poi le aveva fissate saldamente una all'altra. Quattro tavole formavano la struttura per il materasso riempito di paglia. Al fondo papà aveva fatto passare una corda, tirandola a zigzag da una parte all'altra. Aveva fissato un lato del telaio del letto al muro, in un angolo della casa. Solo un angolo del letto non era appoggiato contro un muro. Lì papà mise una lunga tavola, fissandola alla struttura del letto. Poi attaccò due strisce di legno al muro. E alla tavola e ci si arrampicò sopra per fissare l'estremità della tavola a una delle travi del soffitto. E sulle due strisce di legno posò una mensola sopra il letto. Ecco fatto, Caroline, disse. Non vedo l'ora di vederlo pronto, disse mamma. Aiutami a portare dentro il materasso. Aveva riempito il materasso quella mattina e siccome non c'era paglia nella prateria, lo aveva fatto con erba secca e pulita. Era calda perché era stata al sole e aveva un buon profumo. Papà l'aiutò a portarlo in casa e appoggiarlo sulla struttura del letto. Lei ci mise le lenzuole, la più bella delle sue coperte fatte a mano. In testa al letto mise i cuscini di piuma d'oca e sopra i copricuscini. Su ogni copricuscino c'erano due uccellini ricamati con il filo rosso. Poi papà e mamma, Laura e Mary rimasero lì a guardare il letto. Era proprio bello. La corda che lo attraversava era più comoda del pavimento. Il materasso era pieno di erba profumata, la coperta era soffice, i bei copricuscini erano sistemati per bene. La mensola era utile per appoggiarci delle cose. La casa aveva tutto un altro aspetto con quel letto dentro. Quella sera, quando mamma andò a dormire, si sdraiò sul materasso frusciante e disse: "È così comodo che mi sento quasi in colpa." Mary e Laura dormivano ancora sul pavimento, ma papà avrebbe fatto un letto per loro appena possibile. Aveva costruito il letto matrimoniale e una solida credenza con un lucchetto in modo che gli indiani non potessero prendere tutta la farina se fossero tornati. Ora non gli restava che scavare un pozzo e poi avrebbe potuto fare quel viaggio in città. Doveva scavare il pozzo prima, così mamma poteva avere l'acqua in sua assenza. Il mattino dopo tracciò un grosso cerchio nell'erba, vicino a un angolo della casa. Con la vanga sollevò le zolle e le tirò fuori. Poi cominciò a scavare la terra, scendendo sempre più giù. Mary e Laura non dovevano avvicinarsi al pozzo mentre papà scavava, anche quando non si riusciva più a vedere la sua testa. Palate di terra volavano fuori dal buco. Alla fine volò anche la vanga, che cadde sull'erba. Poi papà saltò fuori. Le sue mani si aggrapparono alla terra. Spuntò un gomito, poi l'altro, e alla fine papà rotolò fuori. "Se continuo a scavare non potrò più buttare fuori la terra", spiegò. Aveva bisogno di aiuto adesso, così prese il fucile e andò via con Patty. Tornò con un coniglio bello paffuto e un accordo con il signor Scott. Il vicino lo avrebbe aiutato a scavare il pozzo e lui avrebbe aiutato il signor Scott a scavare il suo. Mamma, Laura e Mary non avevano mai visto il signore e la signora Scott. La loro casa era sperduta nella vallata. Laura aveva visto solo il fumo del camino. Il giorno dopo il signor Scott arrivò all'alba. Era basso e robusto, e i suoi capelli erano sbiaditi dal sole, la pelle arrossata e squamata. Non era abbronzato, era spellato. "Colpa di questo vento e di questo sole maledetti", disse. "Chiedo scusa, signora, ma anche un santo parlerebbe così al mio posto. Sembro un serpente. Da quando sono qui non faccio altro che cambiare pelle." Laura lo trovava simpatico. Ogni mattina lavava i piatti e, rifatto il letto, correva fuori a guardare il signor Scott e papà che lavoravano al pozzo. Il sole era cocente. Persino il vento era caldo e l'erba della prateria stava diventando gialla. Mary preferiva restare in casa a cucire la sua coperta. A Laura invece piacevano la luce accecante del sole e il vento e non riusciva a stare lontana dal pozzo, ma non aveva il permesso di avvicinarsi al bordo. Papà e signor Scott avevano fabbricato un solido argano. Era sopra il pozzo, con due secchi appesi all'estremità di una corda. Quando lo giravano, un secchio scendeva nel pozzo e l'altro saliva. Al mattino, signor Scott scendeva lungo la corda e scavava. Riempiva i secchi di terra così in fretta che papà aveva malapena il tempo di tirarli su e di svuotarli. Dopo pranzo, papà scendeva lungo la corda dentro il pozzo e signor Scott tirava su i secchi. Ogni mattina, prima che il signor Scott scendesse giù, papà metteva una candela nel secchio, la accendeva e la calava giù. Una volta Laura sbirciò, sporgendosi dal pozzo, e vide la candela che brillava in fondo al buco nel terreno. Poi papà diceva: "Sembra tutto a posto", tirava su il secchio e spegneva la candela. "È inutile, Ingalls", diceva il signor Scott. "Era tutto a posto anche ieri sera." "E non si sa mai", rispondeva papà. "Prevenire è meglio che curare." Laura non sapeva quale pericolo papà cercasse alla luce della candela. Non chiese perché papà e il signor Scott erano molto occupati. Pensò di chiederlo più tardi, ma finì per dimenticarsene. Una mattina il signor Scott arrivò mentre papà stava facendo colazione. Lo sentirono urlare: "Ciao, Ingalls! Il sole è sorto, andiamo!" Papà beve il suo caffè e uscì. L'argano cominciò a cigolare e papà a fischiettare. Laura e Mary stavano lavando i piatti e mamma rifaceva i letti quando il fischiettio di papà si interruppe. Lo sentirono chiamare Scott, poi urlare Scott, Scott! E infine chiamò Caroline, vieni presto! Mamma corse fuori, Laura le corse dietro. Credo che Scott sia svenuto laggiù, disse papà. Devo andare a vedere. Hai mandato giù la candela? Chiese mamma. No, credevo l'avesse fatto lui. Gli ho chiesto se era tutto a posto e ha detto di sì. Papà tolse il secchio vuoto dall'estremità della corda e la legò saldamente all'argano. Charles, non puoi, non dovresti, disse mamma. Caroline, devo farlo. Non puoi, oh, Charles, no. Andrà tutto bene, tratterò il respiro finché non sarò tornato su. Non possiamo lasciarlo morire là sotto. Mamma, agitata, disse: Laura, stai indietro. E Laura indietreggiò, stava appoggiata alla casa e tremava. No, no, Charles, non posso lasciarti andare, disse mamma. Prendi Patty e va a cercare aiuto. Oh, non c'è tempo. Charles, se non riesco a tirarti su, se perdi i sensi e io non riesco a tirarti fuori, Caroline, devo farlo. disse papà e si calò dentro il pozzo. La sua testa non si vedeva più in fondo alla corda. Mamma si accovacciò e aguzzò la vista guardando dentro il pozzo. Per tutta la prateria le allodole si alzavano cantando e volavano in cielo. Il vento era tiepido, ma Laura aveva freddo. All'improvviso mamma saltò in piedi e afferrò la manovella dell'argano girandola con tutte le sue forze. La corda era tesa e l'argano scricchiolava. Laura pensò che papà avesse perso conoscenza giù in fondo al pozzo e che mamma non riuscisse a tirarlo su, ma l'argano girò un poco, poi girò ancora, poi spuntò la mano di papà aggrappata alla corda, poi l'altra mano e infine la testa. Si aggrappò all'argano, poi in qualche modo tornò a sedere e si sedette. L'argano girava e un rumore sordo veniva dal fondo del pozzo. Papà cercò di alzarsi e mamma disse: "Rimani seduto, Chas. Laura, prendi dell'acqua, presto." Laura corse, tornò in fretta trascinando il secchio con l'acqua. Papà e mamma insieme giravano la manovella lentamente. La corda si avvolgeva intorno all'argano e il secchio uscì dal pozzo. Legato alla corda e al secchio c'era il signor Scott. Le sue braccia, le gambe e la testa penzolavano e dondolavano. La bocca era semiaperta e gli occhi semichiusi. Papà lo trascinò sull'erba, lo sdraiò a terra e si buttò sopra di lui. Gli sentì il polso, poi ascoltò il cuore. Alla fine si sdraiò a terra accanto a lui. Respira, disse papà. Starà bene all'aria aperta. Io sto bene, Caroline. Sono solo un po' stordito, tutto qui. Ah, oh, per fortuna, brontolò mamma. Mi sembra normale. Che cosa insensata! Santo cielo, mi hai spaventata a morte. Volevo solo che facessi attenzione. Santo cielo, io. Mamma si coprì il volto con il grembiule e scoppiò a piangere. Era stata una giornata terribile. Non voglio un pozzo, singhiozzò mamma, non ne vale la pena, non ti lascerò correre altri rischi. Il signor Scott aveva respirato un gas che si trovava sottoterra. Rimane in fondo ai pozzi perché è più pesante dell'aria, non lo si può vedere né sentire, ma nessuno può sopravvivere a lungo respirandolo. Papà era sceso e aveva legato il signor Scott alla corda, in modo che potessero tirarlo fuori da quel gas. Quando fu in grado di farlo, il signor Scott tornò a casa. Prima di andare disse a papà: "Avevi ragione tu riguardo alla storia della candela, Ingalls. Pensavo fosse inutile, non me ne sono preoccupato, ma ora mi rendo conto di aver sbagliato." "Bene," disse papà. "Dove una fiamma non sopravvive, so che non posso sopravvivere neanche io e voglio stare al sicuro quando posso, ma tutto è bene quel che finisce bene." Papà si riposò. Aveva respirato un po' di gas e si sentiva stanco. Ma quel pomeriggio prese una cordicella da un sacchetto di lino e un po' di polvere da sparo dal suo corno. Mise la polvere in un pezzetto di stoffa e lo legò con un'estremità della cordicella infilata all'interno. "Vieni, Laura," disse. "Ti faccio vedere una cosa." Andarono al pozzo. Papà accese l'estremità della cordicella e aspettò che la scintilla scendesse velocemente lungo di essa, poi gettò il pacchetto nel pozzo. Un minuto dopo sentirono un botto attutito e una nuvola di fumo uscì dal pozzo. "Ecco, così il gas se ne andrà," disse papà. Quando il fumo fu dissipato, lasciò che Laura accendesse la candela e che rimanesse accanto a lui mentre la calava. La fiamma brillò come una piccola stella fino in fondo al pozzo. Così, il giorno successivo, papà e il signor Scott continuarono a scavare il pozzo, ma calavano sempre giù la candela ogni mattina. Nel pozzo cominciava a esserci un po' d'acqua, ma non era abbastanza, i secchi tornavano su pieni di fango e papà e il signor Scott lavoravano ogni giorno di più immersi nel fango. Al mattino, quando la candela scendeva, illuminava le pareti umide e la luce si rifletteva nei cerchi che il secchio, posatosi sul fondo, formava nell'acqua. Papà stava inginocchiato nell'acqua e ne mandava su secchi e secchi prima di poter riuscire a scavare nel fango. Un giorno, mentre stava scavando, un grido si alzò rimbombando. Mamma corse fuori di casa e Laura corse al pozzo. "Tira, Scott! Tira!" gridava papà. Un suono sibilante gorgogliava in fondo al pozzo. Il signor Scott girò la manovella dell'argano più veloce che poteva e papà venne fuori arrampicandosi alla corda, una mano dopo l'altra. "Oh, sembrava di stare nelle sabbie mobili," ansimò papà. Mentre tornava in superficie gocciolante e ricoperto di fango. "Stavo scavando con la vanga quando all'improvviso è andato giù tutto con il manico, mentre l'acqua saliva tutto intorno a me." "La corda è bagnata per quasi 2 metri," disse il signor Scott, riavvolgendola. "Il secchio era pieno d'acqua. Hai fatto bene ad arrampicarti, Ingalls. L'acqua saliva molto più velocemente di quanto io potessi tirarti su." Poi Si batté una mano sulla coscia e disse: Non ci credo, hai anche riportato su la vanga. Già, papà aveva salvato la vanga. Poco dopo il pozzo era quasi pieno d'acqua. Un cerchio di cielo blu si vedeva poco lontano sul fondo e quando Laura lo guardò c'era una bambina che la guardava. Quando salutava con la mano, una mano sulla superficie dell'acqua salutava a sua volta. L'acqua era limpida, fresca e buona. Mentre beveva quell'acqua fresca, Laura pensò che non aveva mai assaggiato nulla di così buono. Papà non andò più a prendere l'acqua calda e stantia del ruscello. Costruì una solida piattaforma intorno al pozzo, con un pesante coperchio per l'apertura che serviva a lasciar passare il secchio con l'acqua. A Laura era vietato toccare quel coperchio, ma quando lei o Mary avevano sete, mamma toglieva il coperchio e tirava su un secchio gocciolante pieno di acqua fresca del pozzo.